Palla Spicchi con Carlo Genta. Ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Abbiamo il coach, voce del basket di Sport Italia, è nostra, coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao Carlo, ciao Flavio, sono in treno, però... Dove stai andando? Andando a Venezia, perché... ma la linea è disturbata, caro coach. Adesso proviamo a richiamarti. Abbiamo il coach e abbiamo il bomber, oggi. Ciao ragazzi. Mario Boni, eccolo qui. Grazie Mario di essere tornato. Mario Boni che è 22 punti e 10 rimbalzi di media. Esatto. Stavo dicendo adesso, vabbè, commenta le partite su Sky, questo lo sappiamo, no? Però non è ancora l'ex bomber, no, è no. Ancora bomber in piena attività con Piacenza, adesso sì. Sta provando un campionato nuovo e diverso. Sto provando nuove emozioni e siccome ho fatto tutti i campionati, mancava quello di Billettanti, ho detto continuiamo imperterrito a giocare e continuo a divertirmi in quella di Piacenza. Come ti trovi? Mi trovo bene, è un campionato un po' più tecnico rispetto a quello di C1 e un po' meno fisico rispetto a quello di A Dilettanti, però ci sono tanti giocatori buoni che potrebbero fare strada e che magari si accontentano di giocare categorie minori. Coach, ci sei? Eccomi qua. Riproviamo sul treno per Venezia. Ha perso il treno anche Milano ieri sera, Ha perso un altro treno europeo contro il Khimki. Esatto, proprio è stato un peccato perché... Ovviamente noi di Sport Italia facciamo tifo per tutte le squadre italiane perché più che vanno avanti loro, più che andiamo avanti noi, ovviamente con le telecroniche, le trasmissioni, eccetera, delle partite. E Milano aveva la sua possibilità, era anche più 11, 29 a 18, stavano giocando benissimo. Due cose sono successe, che a Maciulas ha preso proprio situazione di falli, Buchi l'ha dovuto togliere alla chiusura del secondo quarto, dove erano più 11. E lì ha fatto un po' di rientro Khimki senza punti di riferimento. Poi nel terzo quarto Scariolo ha messo Raul Lopez, che fino a quel momento non aveva giocato bene. Poi Lopez è stato, diciamo, non protagonista, ma artefice di un 10-0 che hanno fatto loro per aprire il terzo quarto, che era tutto in gioco. Poi dopo loro, più profonda la panchina, più potente, più alti e più esperti per la verità, hanno vinto la partita, però Milano aveva la sua possibilità e solamente due cose proprio strane hanno influenzato il risultato. Mario, Milano intanto è partita come l'anno scorso, male in molto male in Eurolega, una vinta, tre perse, male anche in campionato, due vinte, tre perse, sì. Identico record dell'anno scorso. Ebbene, non sta facendo bene Milano, è vittima un po' delle scelte estive secondo me non troppo convincenti. Il primo equivoco è proprio quello tra Hall e Mancinelli, che non so anche come gestire gli allenamenti, perché praticamente da quello che si legge a quello che ho visto il cambio è fatto con l'orologio, quindi sono situazioni un po' strane. E anche fin i Bulleri e una coppia non mi sembra assortita al meglio. Sei d'accordo, coach? Allora ovviamente hanno dei problemi, ci sono i doppioni, poi non c'è un vero playmaker e poi come sa Mario, ieri sera alla fine della partita c'era, diciamo, una contestazione dei tifosi per la squadra che mi dispiace dire, ok, proprio lì sono 2000 al massimo ieri sera, ma hanno avuto da dire, come succede sempre quando tu perdi in casa, ok? Anche quando io allenavo e se perdevamo in casa Peterson perché questo e perché quello, quindi è anche fa parte del gioco, però ovviamente il pubblico voleva la vittoria e l'ha visto sfuggire e c'è grande contestazione, se vogliamo dire, magari non a voce eccetera, ma la gente che non è convinta, come Mario, della scelta di Finley come playmaker, perché è un attaccante, un ottimo attaccante, ma forse non esattamente un playmaker, certamente a livello finale scudetto, certamente non a livello di Eurolega. È un attaccante, ha fatto spettacoli alla fine della partita ieri, si è finita più o meno 18 punti, ha fatto un paio di canestre, un paio di numeri da tre lì alla fine che hanno rimesso tutto in piedi, dove Milano aveva anche la possibilità di vincere alla fine, quindi è un ottimo giocatore, ma chiedere a lui a fare playmaker magari è un po' troppo e quindi. E poi anche Hall, ha detto anche Mario di questa situazione qui, e Acker anche dei problemi fisici, quindi loro sono veramente in difficoltà per gli americani, forse stanno, sì, senza dirlo, forse stanno cercando sia playmaker che attaccanti sul mercato, attaccanti tipo Mario Boni. Tanto che esatto, dire, bravo. Mario, se sei libero, ecco, classe 63-0. Bravo, coach. E quindi ti faccio pubblicità, Mario, mi deve almeno una cena dopo questo. e quindi cercano uno certamente con punti nelle mani e forse anche cercano un playmaker. Io non posso dire questo perché stiamo, discorso di bar in poche parole, però certamente questo servirebbe alla squadra non poco. Sì, però ragazzi, quanti playmaker ha preso Milano negli ultimi due anni, giusti o sbagliati, insomma, mi sembrano tantini, se parliamo di playmaker. Io credo che quando la programmazione di una squadra deve essere fatta d'estate, perché i giocatori sono liberi e sono è il momento giusto per firmarli. Il problema sia di Milano che anche di Roma è prendere esempio, non so, Siena ha una squadra equilibrata, perché ci vuole l'accettazione del ruolo e la gratificazione di quello che si fa. Siena, per esempio, ha 8 giocatori, 8 che giocano, gli altri 4 che sono Marconato, Cararetto, Resse ed Ercole sanno che possono giocare 0 o giocare 10-15 minuti. Ecco, non mi sembra che Milano, Roma abbia una predisposizione del genere, perché hanno tutti squadre con tanti elementi che vogliono giocare. O le Mancinelli, anche le polemiche ci sono state qualche settimana fa con lo sfogo di Hall su Facebook, è stato emblematico. Quindi ecco, la chimica, tante volte si scherza, si ride di questa chimica, questa amalgama, no? di trovare l'amalgama che sembra un giocatore, è fondamentale per dare equilibrio a una formazione, e Dan lo sa benissimo che è un grande allenatore, l'ha provato anche lui. La squadra migliore che hai visto fin qui in Eurolega qual è? come qualità di basket? Non ho visto di persona, cioè in persona, beh, in televisione, Real Madrid, gli altri Messina, ha fatto una grandissima impressione, ha giocato bene, ha vinto trasferta di 40, in marcia hanno perso a Kimchi per un punto, però adesso stanno migliorando il campionato spagnolo e migliorano moltissimo le regole. Non sono stato molto impressionato da Panathinaikos, non sono stato impressionato da Kimchi, questo qui, e poi metto Siena, ok, a parte Siena, che è la squadra che ha maggiormente impressionato, cioè proprio, e in televisione anche Barcellona, le tre squadre che finora mi hanno fatto la grossa impressione. Panathinaikos metto in quarta posizione, però Siena, Real Madrid e Barcellona sono le tre squadre che mi hanno maggiormente impressionato per profondità, equilibrio, come dice Mario, cioè hanno playmaker, guardia, alla piccola, alla grande, pivot, o come dico io, contare da 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, questi 5 ruoli qui. Sono le tre squadre che mi hanno impressionato. So che quando Panathinaikos recupera tutti, anche loro si mettono in questo discorso. Sono le mie 4 squadre per la Final Four. Grazie coach, buon viaggio. Ciao ragazzi, ciao Mario. Ciao, abbraccio. Ciao Dan. Ciao, ciao. Grazie coach Dan Peterson. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi suppongo cominceremo a parlare con gli ascoltatori. 800240024 è il numero verde, poi mi toccherà di nuovo fare la parte del cattivo, vediamo se Mario Boni mi aiuta, perché c'è un discorso sempre su Milano che non mi convince e non condivido, ad esempio il discorso di Bucchi, il budget, per budget Milano può battere soltanto Oldenburg e Procom. Se fosse così, l'Eurolega sarebbe sempre dell'Olympiacos, presentando, come scrive Luca Chiabotti, solo il conto corrente, no? senza andare a giocare. E in Italia Milano perderebbe soltanto contro Siena, perché non mi risulta ci siano squadre che spendono di più. Se pensa questo anche la squadra, si parte già da una base sbagliata. Questo è il ragionamento. Sottoscrivo, non mi piace questa dichiarazione di Bucchi, perché altrimenti le squadre verrebbe dato il campionato già ad agosto, settembre, con i budget, non si potrebbe neanche giocare. È un discorso che non deve passare nello spogliatoio, perché i giocatori devono entrare in campo e conta di più come si fa una squadra, perché Siena, per quanto spenda, però è riuscita ad andare alle migliori 8 l'anno scorso con un budget molto più basso rispetto a al Panathinaikos. Certo. Ricordiamoci che ha perso 3-1 col Panathinaikos senza Lavrinovic, che era appena rientrato. È chiaro. E Siena vuole tornare alle Final Four, e ci sono squadre che spendono più di Siena nettamente, vuole vincere l'Eurolega, e se fosse soltanto un discorso di quattrini, l'Eurolega non comincerebbe nemmeno, no? Finale tra le due greche, mettendoci magari il CSKA o Real Madrid, e non si gioca nemmeno, si presenta il conto corrente. Uno dei messaggi più belli che possiamo ricevere è questo: a forza di sentirvi mi era venuta voglia di andare a vedere la mia prima partita, Angelico Montepaschi, biglietti esauriti, peccato, ma ci riprovi, caro ascoltatore. Beh, sicuramente a Biella sono contenti, visto che gli hanno esauriti, e quindi è un partitone, ma poi sono convinto, Biella, bella squadra quest'anno, Biella. Adesso sentiamo. Tu l'hai commentata contro Roma quando ha vinto il supplementare. Ha fatto un'ottima partita, condotta molto bene da Becchi, a Luca Becchi, perché ha spezzato il ritmo all'automatica, ha messo quella zona che ha impedito a Jabber di fare scorribande sotto canestro, e quindi complimenti a Biella. Tra l'altro ambiente meraviglioso a Biella. Luca da Torino, Paolo da Avellino, Umberto da provincia di Venezia. Partiamo da Torino. Luca, buongiorno. buongiorno a tutti. In parte avete già risposto alle mie domande, perché io volevo un vostro commento su Biella Basket, che veramente la trovo una gran bella favola. E a margine di questo devo dire che diversa gente si muove da Torino per andare fino a Biella per vedere anche il basket. Sottolineo solo questo: Torino, piazza storica, che c'è una fame di basket incredibile. Basta dire che la Torino Basket ha 1500 persone e milita in serie decisamente inferiori. Come palazzetti, come attrezzature, penso che siamo tra i primi in Italia. Dopo le Olimpiadi certamente. Ogni tanto si... Di Mario. Non solo, io ho giocato a Torino due settimane fa, al Palaguffini, bellissimo, rimesso a posto, spogliatoi belli, ascensore interno riscaldato, e poi c'era, per una partita di Serie B dilettanti, c'era tanta gente a vedere Moncalieri che gioca al Palaruffini, quindi insomma Torino è una piazza molto appetibile. Ti ricordi, no? Ai tempi quando Dawkins, Morandotti, Vecchiato, Calieris, eccetera. La famosa Berloni. Arrivo fino a Pino Brumatti. Mi fai sentire veramente vecchio allora. Da Torino ad Avellino, Paolo, buongiorno. Buongiorno, premessi complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo porre agli esperti di studio un quesito, più che altro su una domanda sull'Avellino, più che un auspicio. Dove può arrivare questo Avellino? Bel domandone questo. Io devo dire questo, è una squadra che gioca bene, a me piace, è un tipo di pallacanestro, non so Mario se sei d'accordo, che non si vedeva da tanti anni, una pallacanestro forse un po' retro. Ma, non so se condividi questo. Guarda, è incredibile a volte gli allenatori, l'anno scorso ho preso a sassate quasi, tra virgolette, concedetemi, sì, Pancotto, quest'anno va ad Avellino strepitosa, tra l'altro la società del presidente Ercolino, che mi sta anche simpatico per il suo aspetto e tutto, insomma, ha fatto una squadra di Brown, per esempio. L'anno scorso Maccabi Tel Aviv, non ha preso nessun altro, l'ha preso Avellino, e prestazioni esaltanti. I due polacchi sotto canestro, Dilewicz e Swisi, correggetemi la pronuncia, che stanno facendo molto bene. A Chiol, il giovane, peccato che tu che si è rotto la mano. E poi Shevon Trautman, che è un giocatore che mi fa impazzire, lo ricordo a Livorno, un pivottino, perché non è tanto alto, però cosa vuol dire l'efficienza, l'efficacia di un giocatore che sa giocare a pallacanestro? Magari non un giocatore che vedremo in NBA, ma un giocatore che in tre anni in Francia ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa di Francia, un giocatore molto redditizio, l'ha preso Avellino, quindi Avellino veramente strepitosa. Senti Mario, riportiamoci un attimo sul discorso, perché mi interessa quello della scudettore di Torino. A Torino manca il basket, ma ci sono tanti tifosi, ci sono impianti, eccetera eccetera. Tu vivi una realtà di questo tipo, in giro ce ne sono tante. Verona, che è tornata con un entusiasmo pazzesco, a Trieste fanno 4.000 persone tutte le volte. C'è stato il ritorno del derby mercoledì a Bologna, Fortitudo gira, 5.000 persone un mercoledì sera per la vittoria da Fortitudo. Tra l'altro oggi Saccarati sono dichiarazioni, pronto a lasciare, grandi contestazioni per lui. Come valuti questo movimento del basket sommerso su piazze storiche, che ha un entusiasmo anche a Venezia? È successa la stessa cosa. Ma certo, il basket è nella provincia, perché se noi vediamo le grandi città, le grandi metropoli hanno il numero, nel senso che avendo tanti abitanti possono sperare di avere un numero di persone. Milano fa 2.000 in Eurolega, e 2.000, poi fa 2.000. 2.000. Invece il basket della provincia è quello che tira, perché spingono comunità a stringersi attorno a quella che è il movimento più emergente. Biella tutto esaurito, così come le altre, Ferrara, che è il palazzetto sempre pieno, Teramo, la squadra abruzzese, squadra rivelazione l'anno scorso. Il basket è nella provincia anche perché c'è un coinvolgimento delle autorità in primis, ma poi anche della gente che si sente partecipe e poi vive la giornata dei giocatori, che i giocatori, vivendo in queste piccole realtà, io ci ho giocato quasi tutta la vita in piccole realtà, si stringono attorno e poi portano entusiasmo, portano gente, portano movimento, è una cosa meravigliosa. Tra l'altro prima ho visto su YouTube alcuni filmati, poi ne parliamo. Umberto, provincia di Venezia, andiamo a Caserta. Umberto, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Anche da parte mia. E una domanda volevo fare, io sono di Venezia Sponda Mestre, però ricordate bene che in passato c'era una grossa rivalità tra Venezia e Mestre, avevamo due squadre in Serie A, eccetera. Ricordo bene. Volevo solo dire questo riguardo, volevo fare una domanda però circa i giovani. Un vostro parere sui giovani che abbiamo noi, diciamo, italiani, perché se guardiamo anche i vari rosa delle squadre, sia in una che in due, ce ne sono, ma secondo me non tantissimi. E soprattutto il fatto che non, questi ragazzi, secondo me, a 18, 19, 20 anni andrebbero anche fatti giocare in nazionale, secondo me, almeno alcuni. Volevo sapere un vostro parere se è un discorso prudenziale che non si vuole, diciamo, bruciarli, oppure che sostanzialmente non ci si fida a buttare in mischia. Anche se in passato questo avveniva, mi sembra. Sì. Tanto per cominciare, è un discorso. A me, se mi ricordo, sì, per esempio, col De Bella e Pilutti, tanto per fare i nomi. Sì. Col De Bella e Pilutti, che a Mestre giocavano proprio da ragazzini. Nando Gentile, sì, erano col De Bella e Pilutti, però Nando Gentile, che a Caserta ha debuttato a 16 anni. È un discorso lungo e complesso, adesso chiediamo a Mario, però insomma sulla nazionale non lo so, rimaniamo sempre qui, no? Se uno arriva da Marte o magari soltanto dalla Francia e mi chiede ma chi allena la tua nazionale, io oggi non gli so rispondere, quindi questo è abbastanza surreale, un caos a monte. Però sul discorso dell'ascoltatore, Mario, cosa dicevi? Io dico che il campionato di massimo livello, quello di Lega A, è difficile. Il problema è quello dei costi. Se noi vediamo i giocatori, quello che costano i giocatori, per esempio, che ha preso Milano, il costo per unità è molto molto alto rapportato a quello che può costare un americano. Quindi, e qui bisogna aprire anche una parentesi a detta per i proprietari, perché sono quelli che cacciano materialmente il grano per fare la squadra. Non si può porre troppe limitazioni, ecco perché nella diatriba che c'è tra federazione e Lega riguardo il numero di italiani eleggibili per giocare in squadra, ecco, io lascerei tutto aperto, farei un campionato. Bravissimo. Con un campionato di Serie A aperto, e sono gli altri campionati che devono, come dire, incentivare l'uso degli italiani, perché il massimo campionato, perché non so, la Germania non c'è nessun lì limite per il numero di tedeschi che giocano. Ecco, io direi, dato che i proprietari spendono tanti soldi e quindi investono materialmente per portare uno sport con la pallacanestro ai massimi livelli, non si può mettere una limitazione agli italiani, altrimenti i pochi italiani buoni che ci sono, buon per loro, prendono dei soldi che non corrispondono al reale valore del campo. Bulleri è un esempio, adesso non si dovrebbe dire, però io credo che Bulleri sia stato vittima anche del suo contratto. Dopo Treviso non l'ha voluto, Treviso, nonostante l'ottima fine stagione che ha fatto, perché il costo col quale l'hanno firmato 3 o 4 anni fa a Milano era assolutamente sproporzionato al valore del giocatore. Ci prendono due giocatori. Due barra tre giocatori. Ma è chiaro che sia così, insomma, deve valere il libero mercato, e poi all'interno del libero mercato emergono quelli che valgono, o comunque se la giocano tutti alla pari, insomma. Sì, no? Io credo che nel massimo livello, proprio per proteggere quella specie in via di estinzione, che sono i proprietari, che sono quelli che materialmente investono nel prodotto pallacanestro, quindi bisogna farli divertire, bisogna non mettere troppe regole. Questa è la mia personalissima opinione. No, ma che è ampiamente condivisibile, tanto per cominciare anche la mia, ma poi credo sia anche quella di molti nostri ascoltatori. 800 24 00 24, Pietro Caserta, buongiorno. Salve, io non so se avete già parlato di Caserta, insomma. Di Caserta appassionato ampiamente settimana scorsa, oggi ancora no. Ok, recentemente mi sono appassionato alla pallacanestro e insomma voglio dire che andare con la famiglia al Palamaggio quando gioca è bellissimo. È splendido, è bello anche andarci l'anno scorso quando gioca contro Siena, e fino a metà del secondo tempo si è lì per sognare e poi si viene sconfitti sonoramente, però è bello applaudire perché loro giocano meglio, insomma, anche questo è la pallacanestro. Benvenuto sul pianeta del basket. No, e poi volevo dire, per questa città ha un valore di testimonianza forte per molti motivi che si possono immaginare. Sì, certo. Insomma, volevo soltanto dire questo. Beh, qui è molto importante. Una delle parti migliori di questa città gioca a pallacanestro, tifa pallacanestro. Siamo famosi per altro, volevo semplicemente dirlo. Ma anche per la pallacanestro. Ma poi a Caserta ha sempre avuto una grande tradizione. Ricordo lo scudetto con Gentile Esposito, dell'Agnello, Charles Shackelford, che ha giocato con me in Grecia, e Tellis Frank. Io ricordo la grande tradizione di Caserta, riportati in auge in questi ultimi anni con il presidente Caputo, e l'arrivo di Claudio Coldebella, di cui si parlava prima, come GM, ha costruito una squadra molto competitiva e anche spettacolare, perché non dimentichiamoci che la spettacolarità e la bravura del singolo può esaltare i tifosi, così come di fatto è, ma tutta la campagna direi che si sta proponendo a grande basket, tranne purtroppo Napoli, che ancora però io ho fiducia nel presidente Papalia, ho ma fiducia, no, Mario, ma dai. Lo so che no, però deve, bisogna, ha fatto un movimento, mi dispiace per i tifosi laziali di Reatini che hanno perso la squadra, però sta ricostruendo la squadra, mi auguro che non sia proprio a livello mio personale, lavorando per Sky, come mi piacerebbe vedere Napoli che perde i 40 punti, però è in via di costruzione una squadra diversa, non... ma su presupposti diversi, io sono sempre d'accordo, il discorso si può fare per Sacrati che ci ha messo pure una montagna di quattrini, una forte di tutto, però da lì a dire che ha fatto delle buone cose, no, non è vero, perché era tutto fondato su quel Parco delle Stelle che poi non è nato, e la forte di tutto sappiamo quali siano le sue condizioni anche economiche, per Rieti un po' la stessa cosa, ma è una storia che è iniziata già qualche anno fa. Vorrei aprire una parentesi, perché una delle notizie della settimana è che anche nel basket finalmente sono arrivate le figurine. È vero. Io anni fa avevo fatto le card dell'NBA, ce l'ho ancora l'albumino delle card, però questo qua non me lo perdo, non mi perdo neanche questo. Però io voglio fare perché sono cattivo come al solito, una domanda cattiva al dottor Antonio Allegra, che è direttore commerciale di Panini Italia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi ascoltatori. Mi perdoni subito la domanda cattiva, ma perché l'NBA e non il campionato italiano? Io la risposta la so, ma voglio che la dica lei. Ma diciamo che il nostro accordo con l'NBA è un accordo su scala mondiale, quindi in qualche maniera c'è un'esigenza da parte dell'NBA di un partner globale, un partner che fosse molto forte anche di fuori degli Stati Uniti, e da parte del gruppo Panini, quindi non di Panini come azienda italiana, quanto ovviamente di multinazionale, di estendere su fenomeni globali. E in questo senso l'NBA, direi che dopo il calcio e dopo alcuni grandi fenomeni di entertainment, è un fenomeno globale. Sì. Posso anche tranquillamente dire che però sul basket italiano comunque non stiamo proprio lasciando perdere, come voi sapete l'anno scorso siamo usciti con un almanacco del basket, sì, e credo di potervi annunciare che l'iniziativa verrà ripetuta in collaborazione con Lega Basket Italiana, quindi in qualche maniera c'è un interesse a 360 gradi al fenomeno. Però le figure dei giocatori di basket non sono mai comparse, Mario. Io la tua figurina la volevo. Infatti non avete fatto, dovreste fare anche le figurine di chi ha giocato, no, per tanti anni, no, a parte gli scherzi, credo che sia una bella iniziativa per avvicinare ancora di più quello che è il mondo della pallacanestro con i tanti appassionati, anche perché parlando del campionato italiano ci sarebbe sicuramente un riscontro, perché la pallacanestro è un fenomeno, è il secondo sport italiano, quindi è sempre piacevole, certo. È un tuffo nel passato, chissà chi sarà il pizzaballa delle figurine, cioè quella figurina introvabile che di questa collezione NBA, chi è il pizzaballa? Il pizzaballa non esiste, nel senso che ovviamente io ovviamente devo rispondere così, ma è la verità, no. Non essere creduto, ma ve lo dico, noi abbiamo tutte le figurine in uguale numero. È vero che negli anni 60 e 70 i meccanismi di mescola e di stampa non erano così precisi, oggi se avete occasione di venire a trovarci a Modena vi faremo vedere come stampiamo le figurine, quindi non c'è un pizzaballa. Certo, ci sono delle figurine anche in questa collezione che probabilmente saranno più preziose di altre. Faccio un esempio: le 30 figurine delle squadre, una per ogni squadra, dove viene riprodotta la maglia, sono in raso e quindi anche al tatto hanno una sensazione molto particolare. Ci sono figurine laminate, in qualche maniera vi sono dei subset preziosi, un po' per riprendere anche la logica delle carte americane che avete citato prima. Ecco, volevo chiederle una cosa: per i nostri giocatori italiani in NBA è previsto qualcosa di particolare oppure verranno trattati come normali giocatori? Insomma, un po' di nazionalismo lo facciamo o no? Allora, un mini nazionalismo c'è, nel senso che da un lato hanno la loro figurina esattamente come gli altri giocatori, però ci siamo potuti permettere nella copertina dell'edizione italiana di inserire Andrea Bargnani, quindi in qualche maniera esistono delle copertine personalizzate al di là di Kobe Bryant, che è il nostro testimonial mondiale. Abbiamo potuto, per macroare geografiche, scegliere appunto i giocatori, e nel nostro specifico dell'Italia abbiamo inserito Andrea Bargnani per quest'anno. Poi si tratta di un accordo pluriennale, quindi questo è solo l'inizio, aspettiamoci altri prodotti NBA già in primavera e poi anche nelle prossime stagioni. Grazie dottor Allegra, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie davvero, aspettiamo le figurine del campionato italiano, anche se, Mario, vedi come c'è, cioè, la domanda che facevo all'inizio, non casuale, perché l'NBA non il basket italiano? Vedi quanto tira l'NBA da noi. L'NBA è uno sport molto televisivo, molto spettacolare, è un gioco, è una pallacanestro, lo dico sempre quando parlo di basket nei commenti, è un altro sport, è un altro modo di giocare a pallacanestro, un altro modo di intendere la pallacanestro, tanto è vero che i giocatori che poi vengono a giocare in Italia, presunti ex stelle dell'NBA, falliscono miseramente, perché non riescono a calarsi in quella che è la realtà europea, che è uno sport molto tattico, anche tecnico, e non fisico e basta. E spesso gli americani che vengono a giocare in Europa, in Italia, si credono che noi qui abbiamo la sveglia al collo e l'anello al naso, quindi hanno questo atteggiamento un po' da superstar, e quindi beh, anche se sono al 50-60% faccio la differenza. E invece non è così, fanno delle figuracce anche loro. Ma Mario, ma questo atteggiamento ce l'hanno ancora secondo te anche in questi anni, quando la pallacanestro europea ha dimostrato di essere comunque al passo con quella americana? Cioè, secondo te, da parte dei giocatori statunitensi c'è ancora questo atteggiamento un po' diffidente nei confronti nostri? Guarda, io credo che altissimo livello ci sia grande rispetto per quella che è la competizione, perché bene o male, anche se sono molto ignoranti gli americani proprio nella conoscenza del territorio, della realtà europea, quindi giocare uno che va a giocare al Maccabi Tel Aviv piuttosto che al Sesca ha una considerazione diversa. Quelli che, la gran massa che arriva a giocare magari in squadre di secondo livello, vengono con un po' di superficialità, e poi si scontrano con quella che è il tatticismo italiano, e poi l'incredibile differenza di prestazione. So, Brandon Jennings, prendo ancora un minuto, sì, sta facendo molto bene in NBA, e quindi in Europa è costata la testa a Dejan Bodiroga, perché io non mai avrei portato un giocatore così giovane a giocare in Europa, proprio perché nell'NBA se batti il tuo uomo vai diritto e puoi schiacciare, in Europa ce ne sono 12 pronti a prendere sfondamento, eccetera. E poi un'altra cosa, e poi qui concludo, le prime 20-25 partite in NBA sono un po' modi allenamento, no? No. E quindi giocano così, sulle ali dell'entusiasmo, vedi che ridono, sorridono, si fanno le pacche, invece sul sedere, mentre invece qui in Italia qui è subito vita o morte, è una pressione incredibile, il pubblico ti fischia, ti lancia le monete, ti sputa, cioè è una situazione completamente diversa. Poi vengono qui, giocano il derby Pistoia-Montegattini, e di qui i filmati YouTube. Immaginati l'americano abituato a giocare così difesa a sguardo, no? Sì, sì. Ma poi lasciami segnare che poi io ti faccio segnare. Ma allora adesso tu mi stai pungolando. Allora io spesso e volentieri, quando vedevano me giocare, magari anche, sai, col piede camminato un po' a papera, un po' secche, pensavano il bianchiccio così, no? Allora, cosa vuole questo? Io allora ho sempre adorato il trash talking, no? Dicevo, adesso ti faccio vedere io come si gioca con la canestro. Qui non siamo mica in America, qui siamo in Italia, no? Gli sparavo quei 30 punti in faccia che mi faceva godere, per dire, guarda che l'America è in America e qui c'è in mezzo il mare, qui l'Italia si gioca in maniera diversa. No, qui torniamo ai filmati su YouTube che stavo guardando pure. Tra l'altro ce n'è uno, i migliori, lo conoscerai, i migliori 3 minuti, sì, di basket mai giocati, no? Vabbè. È una partita di qualche giorno fa, no? Sì, un annetto fa, massimo un anno fa, un Montegattini-Pistoia, che è un derby, insomma, inutile che lo dica perché lo sanno tutti. Tanto che tu non sei mai stato ben sopportato nemmeno nei dintorni, no? Siena, così. Sì, da nessuna parte. Fischi... Io sono uno dei giocatori più insopportabili, fischiati da tutte le parti. E ci sono questi primi 3 minuti in cui il professor Boni comincia 3 punti, 1, 3 punti, 2, 3 punti, 3, 3 punti, 4, 3 punti, 5, quanto fanno? 15 nei primi 3 minuti. Se lo ricorda, qualcuno se lo ricorda ancora? Immagino di sì, bei momenti. Tu te lo ricordi? Perfettamente. Silvano, provincia di Venezia, poi Giulio, Napoli. Ciao, sono Silvano, abito adesso a Venezia, ma sono canturino nel DNA. Sì. Sono cresciuto al Pianella con le immagini di Marzorati e di Riva. E mi fa un po' male, nella più bella trasmissione italiana di basket, non sentir mai nominare Cantù, che tutti gli anni fa un miracolo in un palazzetto sempre colmo, che è una scatola di latta, perché è bruttissimo, ma sempre siamo a 2 punti dalla prima in classifica, tutti gli anni campionato spettacolare, senza soldi, e però nessuno si parla di Pistoia, di tutte le belle piccole realtà italiane, ma Cantù non viene mai nominata, che è la squadra italiana più vincente in Europa, e questo mi fa un po' male. Squadra italiana più vincente in Europa, magari no, però di Cantù bisogna parlare. Sì, ma insomma, dovremmo metterci qui a fare l'elenco. Allora, partiamo da una, insomma, arriviamo a tutte, no? Che Cantù con Caserta sia, ma me l'ho scritto, cioè, ho le prove scritte. Insomma, Cantù e Caserta sono, Biella non è più una sorpresa, abbiamo già detto. Sì. Cantù e Caserta, che sono a 8 punti, benissimo, sono tra le due sorprese vere di questo campionato. Le ultime vittorie di Cantù sono arrivate con Jeffers che praticamente non gioca perché si è fatto male, e quindi comunque è difficile trovare una chimica per trinchiere. Adesso c'è questo derby con Milano, però ancora più preziosa, soprattutto l'ultima contro Teramo di vittoria di Cantù. Sì, comunque ha detto bene, non, ho difficoltà a parlare di tutte le squadre perché di tutte c'è qualcosa da dire. Certo. No? Ci eravamo dimenticati Cantù, o meglio, la volevamo tenere parlando del derby Milano-Cantù di domenica. Però Cantù parlava del pianella tutto vecchio, però trasuda tradizione, trasuda tradizione. Quindi quando l'ascoltatore parlava di Marzorati e Riva, non può che parlare del pianella. Io ogni volta che vado al pianella mi emoziono perché mi fa venire in mente tante battaglie che sono state combattute su quel parquet storico. E ancora una volta non possiamo, e qui lo facciamo anche pubblicamente, fare i complimenti ad Arrigoni che, come diceva l'ascoltatore a casa, un amico a casa, ha costruito una squadra eccellente, come ogni anno, ancora di più ogni anno, ha preso un allenatore, Trincheri, che sta facendo bene. Quindi è anche difficile trovare nuovi termini, rischiamo di cadere un po' nell'ovvio. No, ma poi gli ascoltatori servono apposta. Sai Carlo che Michele Mian non ha ancora sbagliato un tiro da tre in stagione. Siamo a 7 su 7 in 5 partite. L'Alpino. Di cui 4 su 4 a Pesaro, dove non era amatissimo. Ma ha concesso interviste Mian? Perché sai che è famoso perché non ha mai concesso interviste. Questo no, posso dirti che non ha ancora sbagliato da tre le interviste. Venerdì prossimo lo chiamiamo. Ma poi Cantù ha lanciato anche tanti giocatori, perché insomma Stonruk viene da lì, ma io credo Sam Hines ha fatto molto bene. Ryan Hoover, Kaukenas, insomma io direi che Cantù, ecco perché non possiamo parlare di Cantù troppo, perché altrimenti avremo solo tante cose buone da dire e risulteremo stucchevoli. Appunto, bisogna trovare dei spunti per poter parlare anche male. 800 24 00 24, sto scherzando naturalmente. Giulio Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti a voi per la trasmissione. Allora io mi riallaccio intanto al precedente ascoltatore per dire che anch'io da bambino sono cresciuto col tifo di Cantù e dei mitici Antonello Riva e Marzorati. Adesso mi trovo a vivere a Napoli e mi sono ritrovato tifoso del Napoli in quanto mio figlio gioca nelle giovani del Napoli. Ecco, volevo segnalare questa realtà, forse non è molto conosciuta, quella del progetto Vivi Basket, che c'ha intanto un presidente che è una garanzia, Roberto Di Lorenzo, e poi un dirigente appassionato e competente come mitico arbitro Pietro Pallonetto. Questi stanno portando avanti un lavoro con i giovani veramente veramente molto importante. Ecco, volevo in un momento in cui si parla magari tanto male di Napoli ricordare questa realtà che è molto positiva. Ha fatto benissimo, non è che si parla male di Napoli, ci mancherebbe altro. Io non condivido semplicemente alcuni meccanismi, alcune decisioni, alcune procedure che consentono di mantenere in vita artificiale una realtà come quella che era Rieti, che adesso ha traslocato provvisoriamente a Napoli, perché ricordiamo che la sede del club è ancora a Rieti, in questo pastrocchio tutto italiano. Ecco, questa secondo me è un autogol per il basket italiano, tutto lì, questa è la mia idea, ma non si parla assolutamente male di Napoli, men che meno di quello che Di Lorenzo, che sappiamo benissimo, sta facendo laggiù. Al telefono con noi il professor Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Ciao. Come mai ti sento male? Flavio, ci sei? Ci sono. Eccoci. Adesso mi senti meglio? Ti sento benissimo adesso. Senti Flavio, anche due chiacchiere sulle mie. Prima abbiamo parlato di figurine, adesso vorrei parlare un pochino di pallacanestro. Zamparini ha fatto scuola anche lì, esonerato Byron Scott in settimana, New Orleans, coach dell'anno meno di 12 mesi fa e adesso via. Piuttosto interessante come storia, anche perché se pensi che l'anno del 2004 Hubie Brown adesso fa il commentatore televisivo, quello del 2005 è D'Antoni e non ne parliamo. 2006 è andato, 2007 è andato, 2008 è andato, e direi che Mike Brown, che è l'ultimo, può cominciare a preoccuparsi, ma a parte gli scherzi, la realtà è che NBA sta cominciando a vivere un po' delle pressioni che ben conosciamo e a cui accennavi tu, perché ci sono tante squadre sopra quella famosa tassa di lusso e i proprietari possono sopportare tante cose ma non di spendere quel tipo di soldi senza vedere risultati, e lì diventano, si zamparinizzano molto velocemente. Sì, perdono la pazienza. Di Mario. Flavio, ciao, sono Mario Boni. Ciao Mario. Ti volevo fare una domanda, ma come mai non salta D'Antoni? Cioè, io, perdona la mia ignoranza nell'NBA, però sta facendo male con New York. New York è una squadra scarsa, quello che dicono tutti, ma come mai non salta lui? Beh, intanto non salta perché New York ha programmato di fare due anni di grandissima carestia, perché non D'Antoni ma l'intera dirigenza e l'intero staff tecnico hanno ereditato una situazione che definire disastrosa è poco. Hanno cercato di fare quello che si fa in questi casi, due anni di vacche magrissime sperando di per banchettare il prossimo luglio. Ecco, magari non si aspettavano necessariamente così magrissime quest'anno, almeno per come si profila a vederla dalle prime 10 partite, però è abbastanza programmato. Ok. Ma invece, tornando al basket italiano, allenatori anche qui in discussione, c'è un derby, Mario, c'è il derby, diciamo prima, Milano-Cantù. Secondo te Buchi può rischiare? Sì, secondo me se prende una legnata da Cantù, adesso il termine legnata è brutto, però se dovesse arrivare una brutta sconfitta, credo che porterebbe a delle decisioni da parte della società, perché l'inizio, come si diceva, inizio della trasmissione, sia in Eurolega che campionato, è piuttosto deficitario. Invece a Flavio volevo chiedere un parere su quanto dicevamo all'inizio, sempre su Milano, un'altra sconfitta, ne parlavamo anche domenica, no Flavio? Avvio identico a quello della passata stagione. Io prima dicevo che non mi è piaciuto il discorso per budget esistente, Milano in Europa può battere solo Oldenburg e Procom. Questo discorso io non riesco a condividerlo, a sposarlo, a capirlo e ad appoggiarlo. No, non riesco neanche io, pur non sapendo esattamente né quanto è il budget di Milano, né quanto è quello del Procom, né quanto è quello del Panathinaikos. Posso provare ad avere un'idea o delle unità di misura, però se così fosse allora non bisognerebbe poter giocare. Bravo. E se così fosse New York non dovrebbe fare 2 anni di vacche magre, perché nominalmente è la squadra che dopo i Lakers costa di più in assoluto dell'NBA, quindi ho paura che il discorso sia un po' più complesso di così. Tanto, sempre a proposito di New York, già che mi viene in mente, ho letto che LeBron James non vuole più sentire discorsi sul 2010, non risponde più a domande sul suo futuro, su ciò che verrà nel 2010. Secondo me dovrebbe fare una telefonata ad Ancelotti, che ogni domenica si sentiva chiedere, ma vai al Chelsea l'anno prossimo? Insomma, deve abituarsi anche LeBron. Eh sì, deve abituarsi, però è vero, è anche vero che onestamente, pur chiedendoglielo tutta domenica, una ventina di volte a domenica, eppur da quello che ho potuto sentire e sapere io, sapendo tutto il mondo che Ancelotti sarebbe andato al Chelsea, credo che l'ultima possibilità di sentirlo fosse dalla sua bocca, fino a che non si erano sistemate certe cose, quindi si potrebbe fare a metà e anche evitare di continuare a chiederlo, tanto non te lo dice, o se te lo dice e ti mette su una pista, è una pista falsa su cui vuoi falsa portarti. Come Giuda, ma certo. La notizia della notte è che Nash ha fatto solo 5 assist, nella sconfitta di Phoenix con Los Angeles, solo 5 assist per Steve Nash. Flavio? Eccolo. Eccolo. Sì. Dicevamo. 5 assist, ma c'è una spiegazione. C'è una spiegazione, secondo cioè? Me. Che i Lakers hanno fatto 78 punti in area. I Lakers sono la squadra che va in post basso di più in assoluto rispetto al resto dell'NBA. Ci vanno il 21% dei loro possessi, la seconda è il 15%. Andare così tanto in post basso, andare così tanto in area contro una squadra che vive di contropiede, di transizione, di difesa non schierata, è mortale. A, perché segni molto, quindi devi fare molte rimesse, e anche se non segni comunque hai davanti 28 metri, hai soprattutto i tre di dietro che possono essere bilanciati, soprattutto in un attacco triangolo. C'è credo una spiegazione tecnica molto molto chiara di quei 5 assist di Nash e di quei 120 e passa punti dei Lakers. Chiudiamo con un ascoltatore, Maurizio da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un saluto specialmente al grande Mitraglia. Grande, grazie, grazie. Mario Boni per noi non esiste, esiste solo Mitraglia. È vero, è il mio soprannome ufficiale. Io ho avuto l'onore di allenare Mario Boni a un mitico trofeo Piattelli, sì. Ovviamente vinto. Beh, certo, vuoi perderlo. È impossibile perderlo. E volevo chiedere, mi ricordo purtroppo sulla mia pelle quei 5 tiri da 3 consecutivi in quel derby, ma ne ricordo anche molti altri belli, tutti combattuti tra Pistoia e Montecatini. Certo. La domanda... Dimmi. Scusa Mario, la domanda è molto semplice. Quando ti vediamo agli stessi livelli dirigenziali di un tuo caro amico e mio altrettanto come il buon Claudio Flippa? Beh, Claudio ha passato 2 anni bellissimi a Mosca con Ettore Messina. Ricordo, ritornando ai tempi che furono, io il basket in Val di Nievoli, i derby Pistoia e Montecatini sono quelli che poi rendono interessante il mondo del basket. Peccato che non ci sia più, dato che Montecatini non è sta a difficoltà in dilettanti, e Claudio, mi auguro di rivederlo presto in una grande squadra. Grazie Mario Boni, grazie a Flavio Tranquillo, a Flavio Suardi. Lo sport torna domani alle 17:00.